America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero, anzi da New York Stock Exchange, Mario Platero, perché sono venuto qui in borsa a New York per un evento alquanto interessante, divertente e beh, direi in qualche modo anche eccezionale. Però prima di raccontarvi di quel che capita qui a New York Stock Exchange, beh, sentiamo quel che succede a Parigi, perché Donald Trump e il presidente francese Macron, beh, si sono visti e hanno fatto, come dire, quasi un piccolo flirt. Our two nations are forever joined together by the spirit of revolution and the fight for freedom. France is America's first and oldest ally. A lot of people don't know that. Ecco, questa è la conferenza stampa. Devo dire, non sono uscite molte notizie, se non l'idea così di creare questo ponte Stati Uniti-Francia, che così sviluppa un rapporto privilegiato, visto che Trump ha difficoltà con la Germania e che la Gran Bretagna con Brexit si sta preparando ad uscire dall'Europa. E la cosa, devo dire, è andata bene. Macron l'ha accolto molto bene ieri sera, cena a lume di candela al ristorante della Torre Eiffel. Ma veniamo, visto che non ci sono state grandi notizie, veniamo al New York Stock Exchange. Ecco, questa era la campanella di chiusura degli scambi di ieri. Se da una parte era di chiusura, dall'altra possiamo considerarla anche, come dire, una campanella di avvio. Di avvio per che cosa? Di avvio per una corsa, per una Formula E, quindi la Formula Electric, che è l'alter ego della Formula 1, cioè il risparmio energetico con Formule 1, perché le macchine sembrano delle macchine Formula 1, le ho viste parcheggiate fuori dal New York Stock Exchange, le quali corrono a Brooklyn, pensate, per la prima volta a Brooklyn, per la prima volta a New York, in una gara alla quale parteciperanno una decina di queste auto appunto elettriche che faranno, come dire, uno statement importante sul fronte dell'ambiente. E chi è che ha suonato il campanello di chiusura? L'ingegner Francesco Staracci, amministratore delegato dell'Enel, perché l'Enel gioca un ruolo di primo piano proprio in questa operazione. Io proprio con me, ingegnere Staracci, ai microfoni di America 24. Buongiorno, ingegnere. Buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, allora, ma la formula è, ce la racconta? Formula E è la sorellina giovane della Formula 1 ed è una corsa affascinante che è ormai al quarto anno, quindi siamo abbastanza avanti di esistenza, ed è un circuito molto interessante. Ci sono 10 squadre, le macchine sono elettriche, la corsa si svolge sempre in circuiti cittadini, quasi sempre in circuiti cittadini, perché queste macchine hanno dei livelli di rumore e non inquinano, quindi è possibile correre all'interno delle città. Quindi è affascinante anche questa competizione a livelli straordinari che si svolge all'interno di realtà urbane qui a New York, a Brooklyn. Ecco, lei ha detto rumore, non c'è rumore. Allora vorrei fare ascoltare i nostri ascoltatori la differenza. Sentiamo da un audio com'è il motore della Formula 1 e quello della Formula E. Ecco, abbiamo sentito come un fruscio quasi, ma scusi, non per provocare, ma la gente non vuole sentirlo questo rumore, oppure poi ci abitueremo e magari sostituiamo anche le Formule 1 che diventano poi formule elettriche. In realtà il rumore si sente, ce n'è, perché le macchine corrono. Si sentono dei rumori molto diversi, si sentono per esempio le frenate, si sente il rumore delle ruote, si sentono questi motori che ronzano in maniera importante, quindi è un diverso tipo di rumore. Quindi credo che ci sia anche in questo un divertimento nel vedere la velocità associata a un ronzio diverso, a una proiezione del futuro molto interessante. Ecco, ma è possibile immaginare un futuro in cui anche la Formula 1 avrà il motore elettrico? Ormai tutti si stanno attrezzando col motore elettrico. Beh, diciamo, la Formula 1 penso rimarrà sempre la Formula 1 con la sua particolarità. Però nell'evoluzione delle tecnologie c'è sempre stato un po' questa fase di sovrapposizione di qualcosa che è arrivato al massimo che può esprimere e una nuova tecnologia che sta entrando prepotentemente. Noi siamo fortunati che in questo momento possiamo divertirci guardando due di queste corse invece di una sola, e per un po' penso sarà così. Ecco, lei ha fatto lo scampanellio di chiusura e ha fatto anche un annuncio, però, perché non c'è solo la Formula E, mi pare che voi cercate di garantire che questa corsa sia a emissione zero per la città di New York. Corretto, questa è la prima, ci sono due prime in questo evento, questa è la prima competizione di auto elettriche che avviene nella città di New York da sempre ed è anche la prima corsa del circuito Formula E, da quando il circuito esiste, quindi da qualche anno, che è completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio, perché abbiamo compensato il consumo di carbonio, le emissioni di carbonio della gara con i certificati. Scusi, emissioni di carbonio, ma se le macchine sono elettriche vuol dire le emissioni di carbonio per esempio di quelli che arrivano con la loro macchina, del traffico? Vuol dire delle persone che sono presenti, del traffico, del consumo energetico di tutta l'organizzazione che c'è intorno a questa manifestazione, che tra l'altro è gestita completamente da Enel, con i certificati verdi emessi da una nostra centrale in Messico che ha prodotto energia rinnovabile. A fronte di questi abbiamo dei certificati che annullano la CO2 emessa da questo circuito. Ecco, questo è un po' il futuro, no? Perché sappiamo che le aziende, se inquinano, possono acquistare dei certificati. Sta diventando un mercato importante, o sbaglio? Sì, è un mercato molto importante che aiuta a ridurre la produzione globale di CO2 in giro per il mondo. Noi lavoriamo affinché il circuito stesso nei prossimi anni diventi autosufficiente dal punto di vista energetico senza emettere CO2, e in questo siamo molto interessati perché crediamo che la tecnologia, con il suo avanzare, permetterà di farlo dall'inizio senza la necessità di compensare. Ecco, un'ultima domanda: le auto elettriche ormai se ne parla, voglio dire, la Ford ha nominato il nuovo amministratore delegato in arrivo dalla divisione auto elettriche, c'è la corsa sfrenata all'auto elettrica, c'è il problema delle batterie. Voi lavorate, mi pare, in Sudafrica a delle ricerche per mettere appunto delle batterie che possono... A che punto siamo con la storia delle batterie? Le batterie stanno diventando ormai la tecnologia del momento, miglioramenti sia in performance, costi in calo veloce. Vediamo un orizzonte temporale di circa 3 anni. Tra i 2 o 3 anni penso che ci troveremo di fronte ad auto elettriche competitive e addirittura migliorative rispetto a quello che oggi la tecnologia offre nel campo delle macchine a combustione interna. Quindi ci troveremo in questa situazione: primo, le macchine elettriche saranno competitive, inquineranno di meno e, devo dirlo, io che le guido, sono assolutamente più divertenti da guidare. Quindi grande vita all'auto elettrica. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su mario24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Ovvero l'ingegnere Starace, amministratore delegato dell'Enel, sempre con me qui al New York Stock Exchange. Cosa vogliamo proporre dal tempio della finanza per i nostri ascoltatori? Beh, questa volta penso che potremmo proporre Somewhere Over the Rainbow, visto che parliamo del futuro, visto che parliamo di auto elettrica e visto che sappiamo che alla fine dell'arcobaleno c'è sempre una pentola d'oro. Beh, fantastico, una canzone immortale, Somewhere Over the Rainbow. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!